Visionari, l'appuntamento con il cinema come ogni giovedì dalle 14 alle 15. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Le informazioni sulla scaletta di oggi le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, con gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 7 novembre, le nostre indicazioni e suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo e poi gli altri appuntamenti della settimana in giro per l'Italia tra rassegne, festival e proiezioni. Il link per riascoltare la puntata precedente, l'archivio del 2013 e del 2012. Allora, diamo inizio con qualche minuto d'anticipo, vista l'assenza del giornale radio di quest'oggi, e ci mettiamo in collegamento, anzi già siamo in collegamento con Stefano Mencherini, regista del documentario Schiavi. Stefano, ci sei? Buongiorno Federico, buongiorno agli audiovisionari. Come stai intanto? Tutto bene, come sempre, adelante, come diceva qualcuno, no? Sì, esatto. Senti, ci siamo sentiti noi un paio di mesi fa, perché a Venezia, la Mostra Internazionale del Cinema, mostravi il tuo lavoro. Questa volta parliamo invece di quanto era in programma per quanto riguarda il Festival del Cinema di Roma all'Auditorium, che comincerà domani 8 novembre fino al 17. Allora, il tuo documentario non è stato preso. E tu, Dimmi. Federico, no, giusto per chiarire le cose da subito, certo. Anche perché anche dei colleghi del Manifesto pare che non abbiano capito bene come sono andate le cose, anche dimmi, io allora. L'ho scritto e ne hanno scritto anche altri quotidiani. Io non ho iscritto e nessuno per me ha iscritto alla selezione del concorso Schiavi, questo nuovo film inchiesta. Sì. Non perché per qualche ragione particolare, se non perché insomma i festival, secondo me è giusto che ai festival concorrano delle opere di un certo tipo, eccetera. Io personalmente faccio una scelta di campo, cioè quella dell'utilizzo, tra virgolette, del festival più o meno famoso per poter avere una piccola cassa di risonanza alle denunce sociali, alle inchieste che poi fanno parte del mio lavoro. Certo, ma ce ne sono certo. Tante di queste inchieste sociali, di questi di queste denunce sociali che rimangono fuori da quei festival. E a Roma è andata così, che io ho proposto al direttore artistico Marco Müller una proiezione speciale, diciamo fuori concorso, ovviamente, tra l'altro negli ultimi giorni a poche settimane dall'avvio del festival. Lui mi ha detto che eravamo fuori tempo massimo, ma che avrebbe interpellato il direttore, il presidente della Fondazione Cinema per Roma per capire alcune cose, se si poteva fare. Poi in altri successivi scambi di mail entusiasticamente mi ha confermato non solo la presenza di Schiavi in un evento speciale che avrebbero dovuto fare, ma anche l'organizzazione all'interno delle giornate del festival sui temi dell'immigrazione, che sono i temi che ci stanno cari, che stanno dentro Schiavi, dentro altri miei lavori passati come Mare Nostrum, eccetera. E data la continua emergenza su questo tema a livello nazionale, a livello europeo, degli eventi collaterali. Quindi io, felice come una Pasqua, dico, faccio la prima nazionale per il pubblico, perché io l'ho presentato in due occasioni a porte chiuse, alla Sala della Stampa Estera l'8 ottobre e successivamente alla Federazione Nazionale della Stampa. Dico, è l'occasione buona per fare la prima nazionale per il pubblico. Certo. Ok. Beh, però da queste promesse scritte così entusiasticamente accompagnate è arrivato il silenzio, e a distanza di una settimana neanche dall'inizio del festival io non avevo neanche una data, anzi non sapevo più se ero gradito o meno. A quel punto ho scritto una lettera aperta a Marco Müller e gli ho detto che le promesse vanno rispettate prima di tutto, ma bisognerebbe aver rispetto soprattutto e un minimo di coscienza civile per chi fa il mestiere che fa lui, no? Ma anche per tutti gli altri, nei confronti di questi temi, di queste denunce, non tanto del mio lavoro personale che appunto sanno fare e fanno tanti altri colleghi. Per esempio adesso c'è un bellissimo lavoro, mi dicono, uscito sui CIE nuovo, di Cosentino e Genovese, due giovani documentaristi che pare abbiano fatto un gran bel lavoro, si chiama EU 013, e anche un sottotitolo che adesso non ricordo, ma tanti di questi lavori. E quindi questa lettera aperta, che si è unita anche a un'esclusione, quella sì, dalla selezione del festival di un film su Tortora, sulla mala giustizia, sono finiti un po' sui giornali, c'è stata un po' di polemica, di maretta, eccetera. E in corsa hanno tentato, per quello che riguarda Schiavi, il Festival di Roma ha tentato metterlo in un angolino poco illuminato, come ho scritto io, giusto per salvare capre e cavoli, dopo l'uscita di queste polemiche pubbliche. A quel punto non mi sembrava più dignitoso e quindi ho detto no grazie, e magari il festival lo facciamo lì davanti all'auditorium, esatto, dove si tiene il festival ufficiale, il festival matrigna, come l'ho definito io oggi sull'Unità. Era questo il progetto poi di cui ci sei venuto a parlare in riunione di redazione, e a questo punto ti chiedo, ecco, cosa avverrà? Cosa avverrà? Al momento non lo so neanch'io. Io ho fatto questo appello oggi, appunto, che gentilmente ha pubblicato l'Unità, dove chiedo, perché poi il problema alla fine è sempre quello, cioè ci vogliono 3.000 euro per far 3 giorni di proiezioni mobili là davanti, e 3.000 euro più IVA, così finiva questo pezzo oggi. E quindi, cioè, io non le ho, nel senso che se le avessi, ma molto volentieri, come mi sono indebitato per Mare Nostrum, mi indebitavo anche per Schiavi, però non le ho. E quindi vediamo, se no cerchiamo di fare uno streaming, qualcosa ci inventeremo, insomma. Certo, c'è bisogno della militanza e del supporto e della solidarietà concreta di tutti, perché qui non si tratta appunto di Schiavi, cioè di questo nuovo film inchiesta, ma si tratta di difendere la dignità e la visibilità di questi temi, di queste denunce, di queste realtà che non vengono raccontate nei canali ufficiali delle televisioni, o quantomeno non vengono raccontate fino in fondo, e anche dai festival rimangono fuori, capito? E quindi qualcosa bisognerà, certo, fare. Probabilmente questa, diciamo, questo voltafaccia rispetto a Schiavi da parte del direttore artistico Marco Müller probabilmente sarà produttivo, perché se non riusciamo a fare qualcosa subito, non un altro festival, ma un festival per dare qualcosa che gli altri, che loro in particolare, non danno, noi sicuramente ci torneremo sopra, e con varie sigle a livello sindacale, i movimenti, le associazioni di migranti in primo luogo, probabilmente in dicembre faremo un assise, perché no, anche delle proiezioni, 3 giorni di proiezioni, proprio per chiedere questo ufficialmente anche al Ministero dei Beni Culturali, anche al Ministro Brai, se c'è. Toc toc, Ministro Brai, facciamo che il cinema documentario, la documentaristica di inchiesta sociale possa avere uno spazio riconoscibile, non a orari immondi, anche nel servizio radio televisivo pubblico della RAI. Toc toc, signor Ministro Brai, facciamo in modo che nei festival dove sono investiti denari pubblici possano esserci degli spazi ad hoc per questo tipo di lavori. Tant'è vero che, insomma, il cinema documentario ha riacquisito anche una dignità che aveva perso mediaticamente con la vittoria di Sacro Gra, certo, al Festival del Cinema di Venezia. Sì, quindi, sì, se Bertolucci e amici ci indicano questa strada, perché non percorrerla? E soprattutto perché non vedere nero su bianco di mettere delle regole? Perché altrimenti continueremo a litigare all'infinito con i Müller di turno, certo, con il Festival di Torino, con quello di Canicattì, e non, cioè, alla fine non arriveremo da nessuna parte. Invece, sì, quello che cerchiamo di raccontare non è altro che la fotografia della realtà. La realtà fa paura, la realtà è scomoda, ma va raccontata in un paese che ha un briciolo di senso di dignità. Sì. Senti Stefano, a questo punto, per chi volesse dare una mano o comunque contattarti, che riferimenti diamo? Date il mio sito www.stefanomencherini.org, lì c'è la mia mail, io la leggo ogni minuto, e non dico il mio telefonino perché sennò magari, come dire, evitiamo. Anche qualche fastidioso potrebbe mandarmi a quel paese, però io li richiamo tutti immediatamente, li tengo comunque costantemente informati su quello che riusciremo a fare da domani durante il Festival del Cinema di Roma. Ripeto, una protesta, ma una protesta civile che non vuole essere una protesta distruttiva, una critica distruttiva, anzi molto costruttiva, cioè fare quello che altri non fanno, aiutare il Festival del Cinema di Roma in questa edizione con proiezioni di lavori che lì dentro non vengono bene fatti conoscere. A questo punto noi chiaramente seguiremo da vicino, tu facci sapere e ci mettiamo a disposizione. C'è anche l'ipotesi dello streaming, per esempio, che è un'ipotesi meno costosa, visto che ci vogliono 3.000 euro per avere questa pedana mobile per solo per 3 giorni. E magari qualche amico, compagno che ci sente, che è capace di attivare questa pratica, nuova pratica elettronica, ci dia una mano e facciamo il Festival Migrante in streaming. Bene, i riferimenti li abbiamo dati. Stefano, io ti abbraccio e spero a presto a questo punto. Spero anch'io a presto, buon lavoro, grazie. Ciao, grazie. Ciao, ciao a tutti. Stefano Mencherini, regista del documentario Schiavi. In collegamento con Massimo Ferrari, regista del documentario Atlantis, ci sei? Sì, buon pomeriggio, ciao. Ben trovato, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Intanto come va? Diciamo un attimo che il tuo lavoro è già stato presentato un po' in giro in diversi festival, noi lo abbiamo avuto modo di conoscerlo pur senza vederlo, però la sua presenza all'ottava edizione di Hai visto mai mi ha destato molta curiosità, e quindi parliamo un po' intanto del tema di Atlantis, Massimo. Sì, Atlantis è un documentario che racconta un po' quello che è il periodo purtroppo italiano, cioè della crisi economica. Noi raccontiamo sostanzialmente due storie principali dove sono protagoniste due donne. Una è Rosa Giancola ed è stata protagonista, diciamo, tra il 2010 e il 2011 di quella che poi è diventata la più lunga occupazione di fabbrica femminile della storia italiana, 550 giorni nella Tacconi Sud di Latina. E insomma, quindi noi abbiamo seguito per più di un anno Rosa insieme alle sue compagne all'interno della fabbrica, e quindi raccontiamo tutto quello che è stato il percorso umano oltre che di lotta, insomma, perché chiaramente dentro questa fabbrica c'erano storie di vita, c'erano le figlie delle operaie che venivano a fare i compiti, c'era, insomma, si racconta in questa parte del documentario proprio questo, tra l'anno tra il 2010 e la fine del 2011, inizio 2012, quando, insomma, parallelamente a queste storie avvenivano poi tutte le varie crisi di governo, il governo tecnico. Rosa è stata invitata in molte trasmissioni televisive, noi abbiamo seguito perché lei ha scritto un diario su Facebook che è la cosa che ci ha fatto partire a documentare questa storia, perché Rosa ha raccontato la loro occupazione attraverso questo diario su Facebook, che è un diario molto profondo, molto forte, e io infatti le ho detto che abbiamo iniziato, cioè abbiamo deciso di seguirla proprio perché ci era sembrato, a me e anche alla produttrice che poi è anche coautrice del documentario, ci era sembrato di leggere quasi un diario di bordo dal Titanic, no? Perché lei riusciva un po' a riassumere nelle sue parole quella che era la condizione, che è la condizione, purtroppo il periodo storico non è cambiato molto, è la condizione che tutti noi stiamo vivendo, un po' precaria e con tutti i paradossi e le contraddizioni che viviamo. Quindi questa è una storia parallela a questa storia, cioè la storia invece di un'imprenditrice di Carrara che nello stesso periodo di crisi invece fa una scelta diametralmente opposta rispetto agli imprenditori, come l'imprenditore della fabbrica di Rosa che abbandona le fabbriche, ma fa una scelta, cioè punta sulla cultura e quindi decide di far vivere la fabbrica e di far vivere alle proprie dipendenti anche una possibilità in più, e quindi organizza dei corsi culturali per le proprie dipendenti e dei festival, per cui il parcheggio della fabbrica dire si anima d'estate e diventa per un mese il palcoscenico di un festival organizzato anche dalle dipendenti, aperto dalle dipendenti, in cui partecipano filosofi, attori, musicisti, insomma, ecco, Le due donne, Rosa e Margherita, quindi l'imprenditrice di Carrara e l'operaia invece della fabbrica di Latina, si incontrano perché Margherita legge i diari di Rosa su Facebook e anche lei rimane colpita e quindi mostra la propria solidarietà, viene da Latina ed incontra Rosa, poi invita Rosa nella sua fabbrica di Carrara, quindi tutte e due conoscono le reciproche realtà, insomma la realtà, ognuna conosce la realtà dell'altra e ovviamente negli incontri ci sono delle discussioni, delle idee, delle opinioni e nasce anche una bella amicizia. Quindi diciamo il documentario racconta un po' in questo anno e mezzo di vicende con una conclusione che non vi dico, ma che è insomma anche abbastanza che ha sorpreso per primi noi, perché insomma poi la storia delle operaie finisce a lieto fine per il fatto, e questa è una storia di cronaca, insomma, per il fatto che è stata riconosciuta il valore della loro occupazione e grazie al curatore fallimentare, praticamente il curatore fallimentare si è impegnato per far riassumere tutte le operaie dal nuovo imprenditore che ha preso la fabbrica, e quindi vabbè, diciamo che il documentario vive di questo lieto fine, anche di un piccolo colpo di scena che è avvenuto naturalmente durante le riprese, che insomma mi auguro che poi si abbia modo di vedere, perché stiamo vedendo di trovare una distribuzione anche nei cinema per il documentario, purtroppo con le limitazioni che ci sono per la distribuzione dei documentari in Italia. Oh, una storia a lieto fine, da una parte una determinazione operaia, dall'altra un esempio virtuoso invece di gestione della fabbrica. Mentre parlavi mi venivano in mente però le immagini, anche le parole e il racconto da tanto tempo a questa parte, per esempio dei telegiornali regionali su quanto avviene nel Basso Lazio, da Roma in giù per tutto l'Agropontino e il litorale, e una chiusura continua di fabbriche, insomma, nonostante questo esempio del tuo documentario, invece la realtà è comunque drammatica rispetto all'occupazione in quest'area geografica, ma non solo. Sì, è una realtà, nell'area del Basso Lazio ci sono dei dati insomma molto molto, cioè impressionanti potrei dire, perché addirittura si parla di più 80% di cassa integrazione, e di famiglie in cui magari c'erano tutte e due le persone, diciamo moglie e marito, entrambi in cassa integrazione, che si ritrovano, e anche nel documentario succede, perché viene documentato questo, ci sono delle donne che raccontano di come da un giorno all'altro si sono trovate praticamente a dover sostenere la famiglia con l'insicurezza totale, per cui da marito e moglie che avevano comunque un posto da operai insomma stabile, con uno stipendio stabile, e alla mancanza assoluta di garanzie, quindi entrambi i lavoratori in cassa integrazione o licenziati, insomma, quindi questa situazione purtroppo non si vede all'orizzonte grande luce, insomma è una condizione che tuttora persiste nel Basso Lazio, ma purtroppo non solo nel Basso Lazio. Sì. Massimo, ecco, rispetto invece ad Atlantis, e poi ci racconterai anche di questo titolo, volevo chiederti, in questa lunga occupazione operaia, qual è l'aspetto che più ti ha colpito e ti ha dato entusiasmo per dar vita a questo lavoro? Ma guarda, un po' lo accennavo prima, in realtà quando si parte a girare un documentario, insomma, uno sa un po' da dove parte, ha un'idea di dove può arrivare, ma non ha mai la certezza precisa di dove si arrivi, ed è anche il bello del documentario. La cosa più bella e più sorprendente è stata diciamo vedere l'evoluzione, seguire, vivere da vicino, perché poi noi appunto, a me è capitato di passare delle notti in fabbrica con loro, è capitato di vivere delle festività, il Natale, la Pasqua insieme a loro lì, per documentare, riprendere, raccontare, e quindi insomma sicuramente diciamo anche l'evoluzione, le vicende umane, il percorso umano e emotivo delle persone che hanno vissuto, che vivono questa storia, che credo poi insomma si riscontri anche nel documentario, è la cosa che più di tutte mi ha, e anche il rapporto che poi è nato tra Rosa e Margherita, insomma due persone che vengono da storie, culture e hanno ruoli differenti e che però si trovano legate da questa solidarietà umana e da vicende, da prospettive completamente distanti. Mm-hmm. Che devo dire che anche la cosa che mi ha, perché il documentario ha questa versione italiana, appunto si chiama Atlantis, ne abbiamo fatto anche una versione ridotta di che dura un quarto d'ora in meno, che è una versione internazionale, si chiama The Women Workers War, che ha vinto a New York a maggio come miglior documentario a un festival legato proprio a temi sociali e del lavoro. E la cosa che più ci ha sorpreso è stata proprio la reazione del pubblico americano di fronte a una storia che, detta così, potrebbe sembrare una storia appunto piccola, marginale, parliamo di una fabbrica che aveva soltanto dipendenti donne, ma insomma di 27-28 dipendenti, non parliamo di grandi fabbriche, una realtà che magari per un pubblico americano potrebbe rappresentare, e invece ci siamo resi conto di come alla fine della proiezione c'è stata commozione, applausi, tanto appunto che poi ha vinto inaspettatamente rispetto appunto a quelle che erano le nostre migliori previsioni, ha vinto il premio come miglior documentario. Poi, come accennavi te, ha vinto Atlantis nella versione italiana, ha vinto anche il premio speciale della giuria alla festa del documentario di Cortona, Hai visto mai. Quindi devo dire che la cosa che è più emozionante è vedere poi come anche le persone che poi hanno modo, possibilità di vedere il documentario si partecipino a questa storia vivendola quasi come una storia personale, perché credo che come accennavo prima, la cosa che più che dall'inizio io insomma ho avuto l'obiettivo di raggiungere è stata quella di raccontare proprio uno spaccato della nostra storia, no? Tu prima accennavi i telegiornali, ci sono anche i telegiornali all'interno del documentario, come quasi come echi, no? come un eco, una notizia, perché tutti noi siamo abituati a sentire queste storie, ad averle proprio quasi come un telegiornale acceso 24 ore su 24, quindi sentiamo migliaia di queste storie, e forse il valore profondo di un documentario è quello di permetterti di entrare dentro una delle tante storie di crisi, di disoccupazione, per farci capire che cosa c'è dentro, che cosa c'è dietro, e quanto poi queste storie raccontino anche la nostra precarietà, i nostri paradossi, le nostre difficoltà di fronte a un mondo che sembra un po' impazzito rispetto a quelle che erano le prospettive da cui insomma partivamo, ecco. Sì, sì. Oh, mi dicevi che a fine mese sarà proiettato proprio a Latina. A questo punto ti chiedo dei riferimenti internet per chi volesse saperne di più, anche rispetto a un calendario di proiezioni. Sì, noi abbiamo, allora, sicuramente la prima verrà fatta a Latina il 29 novembre, proprio per Latina, per il fatto che insomma poi saranno presenti chiaramente gli operai e Rosa come ospiti e come partecipi della prima, e verrà fatta il 29 novembre. Dopodiché stiamo organizzando una serie di proiezioni intanto nel Lazio, quindi nelle province del Lazio, compresa Roma chiaramente, di cui ancora non abbiamo le date, e poi in realtà abbiamo avuto delle richieste anche da Torino, Milano, quindi probabilmente proveremo ad organizzare una serie di proiezioni anche nelle principali città italiane. E per quanto riguarda i riferimenti, sicuramente attraverso il sito della produzione, che è Maga Production, quindi www.magaproduction.it, e anche attraverso la pagina Facebook di Maga Production, quindi sicuramente gli aggiornamenti verranno dati lì. Bene Massimo, io ti ringrazio, un abbraccio e facci grazie sapere. Grazie a voi, grazie mille. Ciao, a presto. Grazie. Massimo Ferrari, regista del documentario Atlantis. Di nuovo con piacere, di nuovo Massimo Vattani per parlare dei documentari al Nuovo Cinema Aquila. Massimo, ben ritrovato. Ciao, buongiorno Fede. Tutto bene? Tutto bene. Sì. Io sì. Immaginavo che mi dicevi tutto bene. abbastanza, grazie. Allora, parliamo di una proiezione, da quello che ho capito un po' una proiezione evento per domani, anteprima stasera. È stasera? Allora sì. Mi hai segnato male il giorno, perché era scritto venerdì 7, io ho interpretato come venerdì 8. No, è giovedì 7, questa sera. Quindi è stasera. Anteprima romana del documentario La Maison de la Radio. Allora, sì. di cosa si tratta, Massimo? Beh, intanto è, diciamo, per continuare, insomma, un filologico di comunicazione con gli altri interventi. Stati alla radio è il quarto appuntamento della rassegna di documentari internazionali. Sì. In questo caso è un film distribuito da Officine Ubu e è l'ultimo lavoro di uno dei registi, inizialmente documentarista nella sua prima parte della carriera, poi si è cimentato con alcuni film di finzione, che è Nicolas Philibert. La citazione dei due film precedenti forse aiuta molti a ricordarlo. È l'autore del Paese dei Sordi del 1992, ma soprattutto di quel documentario che poi è diventato, con il maggiore incasso realizzato mai in Francia, una sorta di blockbuster che è Essere e Avere, che credo tutti voi avrete visto. Sì, delizioso. Assolutamente, sì. Che dire, Nicolas Philibert appunto è conosciuto come uno dei maggiori documentaristi internazionali francesi, ovviamente, che dedica le sue attenzioni ovviamente alla versione transalpina di uno dei tanti autori che interpelliamo e che realizza dei lavori meravigliosi sul cinema del reale e in genere dei documentari su osservazione. La citazione rispetto ai due film precedenti è ovvia, perché è un regista che ama definirsi, cioè caratterizzarsi con un lavoro che va, come potremmo dire, nella ridefinizione dei territori. Il territorio del 1992 era quello dei sordi, dove Philibert riesce a costruire appunto un racconto della loro differenza, e l'obiettivo principale è sempre quello di rendere notizia a coloro che inizialmente possono sembrare diversi, finiscono poi per imporsi all'attenzione degli altri come vengono definiti normalmente diversi. È una riflessione sugli altri, come nell'essere avere si dedica appunto, prendendo spunto dai primi due verbi che si insegnano a scuola ai bambini, e interviene sulla difficoltà del crescere, sulla possibilità di dare ai bambini dei segni iniziali sulla inutilità della violenza, con delle indicazioni di comportamenti etici e civili che possono poi rappresentarli da grandi in modo più corretto e più armonioso di quanto i grandi oggi rappresentano con i loro mondi. Il film di stasera, che è un film che fa parte sempre appunto di questa rassegna internazionale, come dicevo, si dedica apparentemente a un soggetto diverso, se non altro perché i primi film citati, Il Paese dei Sordi e Essere Avere, sono, come dire, due piccoli gioielli dedicati al mondo del silenzio. In questo caso invece Philibert come rappresenta un suo vecchio desiderio, cioè quello di filmare le voci, e quindi pone la sua attenzione da questo grande edificio che si trova a due passi dalla Torre Eiffel a Parigi, che è affacciato sulla Senna, dove ha sede una delle istituzioni storiche dal punto di vista della comunicazione, che è quella di Radio France, che è considerata appunto un fiore all'occhiello della radiofonia europea. Radio France International, fra l'altro, pochi giorni fa è stata all'attenzione delle cronache per l'uccisione dei due dipendenti francesi appunto in Mali. Sì. In questo caso filmare le voci, diciamo, noi abbiamo un'esperienza comune di quello che significa il linguaggio radiofonico, la partecipazione per tanti anni insieme a Radio Onda Rossa è appunto una rassegna di situazioni e di azioni. Raccontare la voce in un film, mostrare il mistero e il fascino del linguaggio radiofonico attraverso quello cinematografico, che è un'esperienza assolutamente affascinante. un po' considerata la sfida di Philibert, che è come al solito condotta con un grande rifiuto. Allora, come sarà caratterizzato? Ci saranno anche ospiti per questa presentazione e poi la programmazione, che avrà una durata definita? Non esiste programmazione. Quando tu inizialmente l'hai definita appunto una serata evento, il film sarà in sala soltanto questa soltanto sera. Soltanto questa sera, quindi. Esattamente, alle ore 21 è la programmazione. Ci sarà una presentazione a cui sarai presente tu e ci saranno altri ospiti? Sì. No, non ci sono altri ospiti, e andremo a questa presentazione. E spero che il pubblico accorra numeroso, anche se il tema può sembrare poco affascinante, il sistema del linguaggio, come interpretare il linguaggio in un emittente radiofonica, come rendere questo linguaggio e i messaggi che ne conseguono comprensibili agli altri, è un elemento fondamentale che a me interessa moltissimo, come ecco. Tu potrai ben immaginare. E infatti proprio su questo, Massimo, proprio in base alla tua lunga esperienza radiofonica qui, volevo chiederti cos'è che ti ha catturato, per esempio, di questo lavoro di Philibert. Diciamo, intanto va stabilita una differenza. Noi nella nostra esperienza non abbiamo parlato al mondo e il mondo non ha utilizzato noi per parlare alla gente. Sì. Abbiamo e rappresentiamo, e questo non è assolutamente un elemento negativo, per nascita, per formazione e per obiettivo, appunto, la radio ha rappresentato uno strumento utilizzabile da un numero assolutamente limitato di persone. Questo argomento potremmo affrontarlo in due aspetti diversi. Il primo aspetto è quello che ci ha costretto per anni a spostare le antenne dal bagno alla cucina per superare le difficoltà che ci venivano dalla intromissione delle nostre frequenze di Radio Vaticana. Successivamente, quando abbiamo potuto ottenere gli 87,9, quindi misurarsi appunto con l'elemento di libertà totale, cioè consentire a chiunque di girare la manopola della radio e accendere e ascoltare il nostro messaggio, credo che appunto, senza entrare appunto nell'elemento della critica, a noi sia un po' mancato questa capacità di intendere che il messaggio telefonico non doveva essere più circoscritto a un certo numero di, come dire, affezionati o vicini alle nostre idee, ma appunto la scelta di un linguaggio più globale che potesse raggiungere anche coloro che non conoscevano la nostra storia e che non erano interessati inizialmente al nostro percorso. In questo caso, nonostante i paragoni siano assolutamente diversi, perché parliamo di una struttura elefantiaca del mondo dell'informazione internazionale come Radio France International, diciamo, però ci dà la possibilità di comprendere, appunto, vedendo il film, quali sono, credo, le strade da percorrere anche per un emittente diversa nella sostanza e nella forma come, certo, Radio Onda Rossa. Che poi questo è poi lo sforzo di questa trasmissione nella scelta degli interlocutori, insomma. Assolutamente così. Adesso è assolutamente difficile riproporre questa riflessione, che magari è così semplice fra di noi, prendendo spunto soltanto da un film, ma credo che rimanga sempre un aspetto molto interessante poter riprendere questo discorso della comunicazione in ogni momento, anche a prescindere di avvenimenti, certo, come in questo caso cinematografici. Bene, allora ricordiamo la Maison della Radio questa sera al Nuovo Cinema Aquila. L'orario proiezione, Massimo? L'orario proiezione alle 21, e ti chiedo un piccolo regalo, un minuto in più, perché non avremo tempo per parlarne giovedì prossimo, visto che la proiezione è domenica. Sì. Domenica sera alle ore 20, per 4 giorni fino a mercoledì 13, torna anche Marco Santarelli, che è uno degli ospiti fissi e graditissimi delle rassegne documentari nazionali che il Nuovo Cinema Aquila organizza negli ultimi anni. Torna col suo ultimo film, Lettera al Presidente, che apre la sezione prospettive Italia Doc alla 7ª edizione del Festival di Roma, venerdì alle 5:30, sabato alle 5:30 del pomeriggio, e da domenica è assolutamente in sala da noi per 4 giorni. È un documentario importante, segna, credo, anche un'evoluzione positiva che chi segue il lavoro di Marco Santarelli poteva intravedere anche nei lavori precedenti, e che secondo me si caratterizza in maniera definitiva assolutamente in questo documentario, per cui ci tenevo a pubblicizzarlo anche attraverso i microfoni della radio, visto che non avremo il tempo di parlarne meglio. Bene, allora Massimo, al prossimo appuntamento. A questo punto ti abbraccio sempre con affetto. Ciao. Un saluto. Ciao, ciao Massimo. Massimo Vattani del Nuovo Cinema Aquila per la proiezione della Maison della Radio. Per comunicare con noi, visionari @ondarossa.info, il cinema su Onda Rossa ogni giovedì dalle 14 alle 15. In collegamento con Leonardo Ferrari, carissimi, per quanto riguarda il suo film di cui è regista, Mister America, in uscita in sala oggi giovedì 7 novembre, in viaggio in treno, per cui speriamo che la linea tenga, insomma. Speriamo, dai. Ciao Leonardo, allora ciao. Intanto benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ti chiedo subito, allora, mi interessava, non ho avuto modo di vedere il film, mi interessava questa commistione, questa ricerca nell'ambito dell'arte visuale, che sia il cinema, che sia la pittura, che sia la fotografia, che sia la scultura, in collegamento con il cinema. In questo caso parliamo dell'America, degli Stati Uniti d'America, di Andy Warhol. In che termini, Leonardo? Allora, innanzitutto, beh, la cosa che da subito mi ha interessato è il fatto che l'arte visiva è una componente fondamentale dell'arte cinematografica, e molto spesso, e non è un giudizio, però è in qualche modo dimenticato come componente, o comunque messa da un punto di vista secondario rispetto a quella che è sicuramente importante, ma quella che può essere considerata la storia. Quindi l'aspetto visivo del film è molto importante, è come se fosse ogni fotogramma una sorta di quadro. Sì. Questo ha comportato anche nella lavorazione grandi, diciamo, difficoltà e rallentamenti. Infatti il film è stato girato nell'arco quasi di 3 mesi, però visivamente, diciamo, ha la sua importanza, nonostante poi sia un film indipendente. Come racconteresti in breve la storia di qualche accenno di storia di questo del tuo film? Allora, basandomi sull'idea che, diciamo, molte persone che hanno conosciuto e che hanno collaborato con Warhol hanno avuto un effetto tasto, diciamo, nella loro, perché qui c'è una galleria. Sì, infatti se per un attimo sei andato via. E qui adesso le sentite? Sì, ti sentiamo. Sto vicino al mare, perché sono andato a Sarzana e fa tutta la costa. No, diciamo, gli effetti, vi dicevo, nei fatti che ha avuto sulla vita delle persone. E questa è una famiglia che... L'abbiamo perso Leonardo Ferrari, carissimi, proviamo magari più tardi. Parliamo ora di un festival, Art Doc Fest, con Benedetta Nervi, che è una delle curatrici. Stiamo parlando di una rassegna all'interno, nella Casa dell'Architettura qui a Roma, dall'8 al 15 novembre. Allora, ci dovrebbe essere Benedetta, pronto? Pronto, ciao Federico. Ciao, allora tu sei una delle curatrici, puntualizziamo questa cosa. Sì, esatto, perché questa rassegna, diciamo, questa associazione culturale Art Doc Festival, che è nata anche per la promozione di questa rassegna, è composta da me, Lia Polizzotti e Antonella Greco, che abbiamo curato insieme la rassegna. E questa rassegna poi è promossa dalla Casa dell'Architettura. Sì. E appunto, come dicevamo, comincerà domani, venerdì 8 novembre alle 18:30, tutte le sere ad ingresso gratuito fino al 15 novembre. E inoltre, pur essendo la prima edizione, abbiamo avuto la grande soddisfazione di essere inserite all'interno delle risonanze del Festival di Roma, e quindi, diciamo, questo ci dà molto orgoglio. Allora, quante saranno le opere presentate, insomma, quanti paesi partecipano, insomma, dici un po' di queste cose. Sì, i documentari sono stati selezionati attraverso quelli che sono giunti con un lancio di un bando, e sono, sì, circa una ventina. Una ventina. Sono tutte opere internazionali, alcune in prima italiana, come il film di apertura, che è un documentario su l'architetto Rudy Ricciotti, della cineasta francese Laetitia Masson, e che è stato presentato solamente in occasione della mostra su Ricciotti che si è svolta nella scorsa primavera alla Città dell'Architettura e del Patrimonio di Parigi. Ma dei film magari vi faccio parlare direttamente con Lia Polizzotti, che è l'altra curatrice della rassegna. Che benissimo, va bene. Pronto? Ciao Lia. Ciao. Allora, una ventina i lavori proposti, facciamo un po' una panoramica generale, definendo un po' quelle che sono le loro caratteristiche. Sì, ecco, la rassegna ha come filo rosso l'architettura e il suo rapporto con gli altri linguaggi artistici, in particolar modo con l'arte figurativa. E come diciamo sul tema dell'architettura ci saranno degli approfondimenti, delle monografie su architetti italiani tra cui Paolo Soleri, Leonardo Ricci, Leonardo Savioli e Eric Mendelssohn come per gli architetti stranieri, ma anche un documentario sullo studio norvegese che ha vinto il bando per la ricostruzione di Ground Zero, che è Snoetta at Ground Zero. E poi abbiamo invece, per quanto riguarda l'arte, un documentario su Mondrian che sarà in apertura a seguire il documentario su Ricciotti. Poi ci saranno per Pennone, un'installazione di Plessi, Morandi, ma anche artisti contemporanei come Christian Leperino. E anche una serata dedicata al design, che vedrà invece un documentario su Alessandro Mendini e un documentario su De Lucchi. Ma oltre diciamo a tematiche e approfondimenti specifici, ci saranno poi delle tematiche diciamo che attraversano più linguaggi, come quelle dell'emergenza abitativa, e in questo volevo segnalare il film Space Metropolis, che racconta attraverso una storia fantascientifica. Lo abbiamo avuto ospite qui in trasmissione, come no, sì. Anzi, avevamo pensato anche ad una versione radiofonica utilizzando l'audio del documentario, chissà, magari riusciremo a farla prima o poi. Verrebbe sicuramente diciamo in maniera efficace, perché il documentario si presta moltissimo. Sì. E anche in un altro documentario invece, un'anteprima italiana, The Wounded Brick, che affronta sempre il tema dell'emergenza abitativa con il contributo di importanti architetti come Gregotti, ma anche con le interviste agli abitanti dell'Aquila. Sì. Oh, questo volevo chiederti intanto se è prevista anche la presenza degli autori o comunque incontri legati alla proiezione dei singoli lavori. Sì, ogni serata verrà introdotta da studiosi e appassionati del settore, che quindi introdurranno la serata, che è legata ogni serata ad un tema specifico, e poi ci saranno i registi dei singoli documentari per rispondere alle domande del pubblico. Come sono strutturati questi 7 giorni? Indicativamente le proiezioni a che ora cominciano? Quante ce ne sono ogni giorno? Iniziano tutti i giorni le proiezioni alle 18:30. Okay. E sono 2 o 3 proiezioni per serata. Benissimo. Per avere maggiori informazioni sul programma, c'è un sito internet a cui far riferimento? Sì, c'è il nostro sito dell'associazione www.artdocfestival.com, dove c'è tutto il programma della manifestazione con le schede dei singoli documentari. Oh, una curiosità, visto che si parlava di emergenza abitativa, e un lavoro è Space Metropolis, quindi dell'occupazione sulla Prenestina del Metropolis, e poi mi dicevi dell'Aquila, della città dell'Aquila. L'Aquila in che termini ne parla il documentario rispetto al dopo terremoto? Sì, sono interviste diciamo ad abitanti dell'Aquila che hanno dovuto abbandonare la loro casa, ma soprattutto cioè su come proposte, su come ricostruire poi le case, non specificatamente solo dell'Aquila, ma quali sono le esigenze fondamentali di chi abita sia le città antiche dell'Italia, ma anche i nuovi quartieri abitativi che vengono continuamente costruiti insomma attorno alle città. Anche perché, per esempio, prendo l'esempio di Roma, insomma, pensavo alle continue costruzioni che vengono fatte e case che spesso rimangono vuote, e c'è fino a qualche anno fa, e forse i dati sono anche peggiorati in tal senso, c'era una città grande quanto Bologna all'interno di Roma disabitata, e poi ci sono invece vasti settori della popolazione in emergenza abitativa, per assurdo, insomma. Sì, esattamente, il documentario propone proprio una riflessione, diciamo, generale su questa tematica, e poi invece ha voluto cogliere nelle testimonianze dirette di chi ha perso la casa all'Aquila una riflessione invece più personale su come vivono nelle nuove case che gli sono state affidate e che cosa in realtà profondamente di cosa sentono la mancanza. Bene, allora ricordiamo, che edizione è questa? La prima edizione di Art Doc Fest alla Casa dell'Architettura qui a Roma dall'8 al 15 novembre. Lia, io ti ringrazio, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Ciao. Walter Bencini, regista del documentario I Cavalieri della Laguna. Walter, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Sì, ciao Federico, buonasera a tutti. Allora, era stato presentato all'interno del Clorofilla Film Festival di Legambiente, I Cavalieri della Laguna. Di cosa si parla, Walter? Senti, fondamentalmente è un viaggio umano all'interno della comunità dei pescatori di Orbetello, per cercare comunque di scoprire attraverso comunque le storie di vita un nuovo modo di pescare che è incentrato sulle tradizioni e sulla qualità organolettica, sull'equità sociale e nel rispetto dell'ambiente. Oh. Cioè, sono uomini che per sopravvivere alle sfide dell'ambiente e del mercato globale si sono riuniti in una cooperativa, sì, di circa 100 persone, e hanno messo su uno spaccio un laboratorio per la trasformazione, un ristorante dove servono il pesce di giornata, poi offrono un servizio di pescaturismo e gestiscono anche la bonifica della laguna, veramente raccogliendo le alghe. Sì. Ora, questi uomini da generazioni mantengono un legame molto stretto con questa realtà e gli permette comunque a tutta la comunità di vivere il proprio lavoro, tutelando al tempo stesso anche un ecosistema che comunque è molto delicato. Certo. E non sopporta l'invadenza dell'uomo e comunque è necessita anche di cura e attenzione. Sì, insomma, sì. Uno sguardo reale su una comunità che è in bilico tra il rimpianto di un passato che in parte si vuole salvare e il tramonto della sua storia. Walter, scusa, ti ho interrotto. Infatti, no, volevo dire, infatti, questi uomini con le loro barchette sono per me i veri eroi contemporanei. Sono quegli eroi che sono sospesi, no, tra il destino di un tramonto e l'ostinata poetica volontà anche di non darci per vinti, no? Di continuare ad essere anche quella storia che per molti di loro è poi anche la storia familiare, dei padri, dei nonni. Mm-hmm. Sono in un certo senso anche i custodi della laguna, no? Sì. Si possono pensare questi cavalieri anche come una possibilità, seppur fragile, comunque si offre a ognuno di noi, no? Un esempio di riscatto. Sì, nel sì. senso, ora, considerando la crisi economica che si sta vivendo in questo momento, in cui il sistema industriale occidentale ha fallito in pieno, per me diventa fondamentale mettere in luce e promuovere dei modelli produttivi alternativi, ecco. La logica delle realtà piccole e locali come questa qui, anche se può sembrare anacronistico in confronto a un mondo globalizzato, non fatte di cifre astronomiche, secondo il mio punto di vista invece è l'unica via percorribile, almeno se si vuole ritrovare un rapporto armonico con la nostra madre terra. Ecco. Ecco, volevo chiederti quante persone coinvolge questa cooperativa. Tra l'altro, ecco, è attiva in una zona che è ad alta protezione, insomma, comunque l'attenzione al territorio in quella parte d'Italia è molto forte e sentita, insomma. Sì, la cooperativa sono 60 soci più 40 dipendenti. Sì. Il contesto ambientale appunto lì è molto complesso, sì, e delicato, sì, in cui operano appunto questa comunità di pescatori. Sono sempre, diciamo, al limite del collasso, è un po', diciamo, una caratteristica tipica un po' di tutte le lagune, in cui tutte le attenzioni dell'uomo, no, per trovare un equilibrio poi portano sempre a nuovi cambiamenti nell'ecosistema e di conseguenza poi a nuove problematiche da affrontare. Mm-hmm. Qui c'è sempre questo accanimento continuo in cui poi va trovato comunque un equilibrio. Per certi versi gli ambienti lagunari sono degli esempi anticipatori di quello che può succedere nei territori più ampi, perché lì le cose avvengono molto più velocemente, ecco. Sì, sì, sì. Ecco, alcuni elementi di questa attenzione sia alla tradizione che all'ambiente già li accennavi. Ecco, se ci potevi sviluppare anche qualche altro di questi elementi rispetto proprio all'attività di pesca che loro fanno. Sì, loro la fanno, una cosa abbastanza complessa, comunque fanno diverse, praticamente loro pescano diverse tipologie di pesce, sì, con diverse tecniche, per cui si va dalla pesca di cinta, che è quella fatta con la rete tradizionale, per loro con quattro barchette praticamente creano un semicerchio alla rete, e lì pescano ovviamente più che altro rase all'interno della laguna. Poi, per esempio, ora detta in maniera molto così semplice, poi c'è un altro tipo di pesca che viene fatta invece nelle peschiere, che è legata ovviamente ai flussi di alta marea e bassa marea, per cui quando il pesce risale la corrente e passa ovviamente all'interno della peschiera, perché loro sono posizionate proprio in dei punti strategici della laguna, nell'apertura quelle verso il mare, con delle casse, dette casse della morte, loro pescano ovviamente questi pesci, che si tratta comunque di orate, muccini, spigole, cioè tutto quello diciamo che passa durante la risalita, perché i pesci dal mare entrano in laguna per andare a pascolare, e loro durante le maree le intrattengono all'interno di queste chiuse, e poi le pescano normalmente con una rete a sacca, e le tirano fuori. Poi loro pescano anche le anguille con i cosiddetti, quelli famosi martavelli, sono quelle reti lunghe circolari messe in dei punti strategici della laguna, in cui durante determinate stagioni le anguille, che appunto risalgono anche lì la corrente, comunque si spostano nella laguna, seguono determinati percorsi fino ad entrare a rimanere impigliati in queste reti. Senti Walter, poi ci sono tante altre tipologie, insomma. Certo, immagino. Senti Walter, per saperne di più sul tuo lavoro e sulle anche un calendario eventuale di proiezioni, hai un sito internet o comunque un luogo in rete di riferimento? Sì, c'è un sito internet che praticamente è www.inset/cavalieri-della-laguna. Oh. E poi per quanto riguarda la distribuzione, siccome abbiamo finito ora proprio l'altra settimana l'edizione in inglese, ora praticamente siamo pronti per la distribuzione internazionale, per cui ci si sta iscrivendo ora in questo momento proprio tutti i vari festival del 2014. Va bene, allora ci terrà informati. Sì. Un abbraccio, ciao Walter. Ciao, buona serata. Grazie, ciao. Walter Bencini, regista del documentario I Cavalieri della Laguna. Con noi Alberto Fassina di Partenos Distribuzione per parlare del film La Gabbia Dorata, in uscita in sala oggi giovedì 7 novembre. Alberto, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Salve a tutti, grazie. Un film che ho avuto modo di vedere qualche settimana fa in anteprima stampa, mi ha molto colpito e ho detto sì, ne dobbiamo parlare in qualche modo, quindi a questo punto ho preso contatti proprio con la distribuzione che l'ha portato in Italia. Alberto, ecco, come nasce questa scelta, questo contatto con questo prodotto? Allora, questo film nasce in maniera molto semplice. Questo è un film che avevamo visto al Festival di Cannes e che ci aveva da subito colpito. Poi, siccome nella nostra distribuzione siamo diverse persone, insomma nel giro di qualche giorno tutti quanti l'hanno visto e ci ha convinto fin da subito, per quanto ci siamo resi subito conto che era un prodotto, è un prodotto, come dire, anche un po' difficile per il nostro mercato, perché è un film molto duro e puro, insomma, una storia molto forte. Però a un certo punto ci siamo anche detti, in un modo o nell'altro, era il caso di farlo, e l'abbiamo fatto, e abbiamo anche deciso di fare questa scelta anche un po' coraggiosa, di uscire proprio come il film l'avevamo visto, cioè in lingua originale con i sottotitoli, anche perché poi il film, a dire la verità, non è neanche che sia molto parlato, quindi non ci sembrava il caso di perdere la lingua dei personaggi, degli attori che sono strepitosi, che a Cannes hanno vinto il premio come miglior cast, insomma, e quindi di riproporlo proprio nella sua versione originale, sì, con i sottotitoli. Insomma, era un film che avevamo proprio voglia di fare. Allora, Alberto, per chi ci ascolta, raccontiamo questa storia tragica, drammatica, di migrazione dal Centro America per passando per il Messico per arrivare alla barriera di separazione tra il Messico e gli Stati Uniti, che insomma poi vede il successo, cioè non diciamo troppo, no chiaro, la possibilità di varcare questa soglia in generale riguarda una minima parte dei tanti migranti che cercano questa strada, ecco. Esatto. È una storia, allora, intanto cioè, è effettivamente, voglio dire, un film su una storia di migranti, no? Di tre ragazzi giovanissimi, sedicenni, nel pieno della loro forza, della loro vitalità, dei loro sogni, che semplicemente vogliono migliorare la loro condizione, intraprendono questo viaggio. Loro sono ragazzi guatemaltechi e ai quali si aggiunge poi un ragazzo indios con cui hanno una comunicazione di gesti, perché non parlano la stessa lingua, però è una parte, secondo me, molto, cioè non è casuale, insomma, questa questo arrivo di questo quarto ragazzo, perché ci apre a tutta una serie di significati, intanto di conoscenza delle varie culture, che la comunicazione non è soltanto la comunicazione verbale, che è un ragazzo che ha tutta la sua filosofia, che ci porta più dalle parti, diciamo, di atteggiamenti legati alla comunanza, al condividere. Cioè questo viaggio è un viaggio che non va fatto in solitaria, ma che è un viaggio che deve per forza essere fatto insieme, cioè dove le cose devono essere condivise, dove ci si deve far forza uno con l'altro. E non è un caso, ad esempio, che questo ragazzo, una delle poche cose che dice, che si capisce, il saluto che questo ragazzo fa quando incontra quelli che diventeranno poi i suoi compagni di viaggio, loro si salutano nella loro lingua in una formula che potrebbe essere simile a "come sta il tuo cuore", no? Noi diciamo semplicemente ciao, e invece questo è il suo saluto, per cui, cioè, ci apre a una esperienza più emotiva, insomma, del viaggio. Poi il viaggio è un viaggio di difficoltà, una dietro l'altra, di imprevisti, però anche di momenti, come dire, di gioia, di distacco, di imprevisti, di cose da superare, di momenti molto drammatici, ed è la storia proprio di un viaggio, di migliorare, di inseguire un sogno. Il sogno è quello dell'America, che sarebbe appunto la terra dorata, insomma, la ricerca dell'oro, però alla fine, come viene detto appunto nel titolo, questo oro ha la forma più che altro di una gabbia, e in questo senso, senza dire nulla nel finale, le immagini finali proprio racchiudono perfettamente, insomma, il senso di questo titolo. Una delle cose che fa impressione del film è vedere questo viaggio in treno e queste masse di persone. Ecco, l'idea che mi è venuta è che siano state girate in effetti proprio dal vero queste cose. Sì. Allora, noi abbiamo avuto la possibilità proprio di incontrare il regista Diego Quemada Diaz, che era presente in Italia al Festival dell'Internazionale. È stato bello anche per noi, appunto, poter, come dire, avere qualche informazione di più sul film, e proprio sulla domanda cioè si vede che è un film fatto, come dire, anche con pochi soldi, c'è cioè un progetto molto, molto semplice, molto lucido, molto concentrato, però c'è un treno, ci sono tantissime persone, no? E quindi abbiamo chiesto ma come è funzionato, cioè cosa avete fatto, avete preso un treno, così. Allora lui ci ha spiegato un paio di cose che adesso vi dico, che mi sembrano molto interessanti. Intanto ci diceva che nel Messico, in quelle zone lì, la gente, diciamo, che ha denaro si muove con i pullman, mentre i treni che esistono, appunto, e che li vediamo nel film, sono soltanto treni merci, per cui l'idea di salire in corsa su un treno per fare dei tratti di strada per attraversare il territorio è l'unico modo per un popolo, per delle persone che non si possono permettere altri viaggi, di viaggiare. Cioè, fa venire in mente l'America della Grande Depressione, insomma. Sì, ma infatti il film poi, cioè, secondo me la forza di questo film è che poi è una storia di adesso, ma che la possiamo girare in qualsiasi, come dire, contesto, sia temporale che geografico, e ci ricorda le migrazioni dell'Albania, ci ricorda appunto l'America della Grande Depressione, ci ricorda i viaggi nel Mediterraneo, cioè un film che raccontando un qualcosa di molto semplice, cioè un viaggio per migliorare la propria condizione, in realtà racconta la storia di molti popoli, insomma. Sì. E l'altra cosa che secondo me è interessante dire, e che consiglio agli spettatori che andranno a vedere il film, di fare questo micro sforzo di vedere tutti i titoli di coda del film, perché alla fine lo spettatore vedrà una serie di nomi, 600 se non sbaglio, che scorrono su questi titoli di coda in quattro colonne, no? E sono proprio tutti i migranti, quindi tutte le comparse che erano migranti veri, cioè che stavano intraprendendo quel viaggio veramente, e che sono stati scritturati regolarmente, quindi hanno partecipato al film, però contemporaneamente hanno anche viaggiato, cioè loro si sono trovati su questi treni e per 5 giorni la produzione ha potuto prendere un treno per far fare una tratta, e per cui quelli che vediamo sono proprio migranti che stanno facendo il loro viaggio, mm-hmm. e che per 5 giorni, oltre a essere migranti, sono stati anche interpreti del film. Alla fine del film si vede questo elenco lunghissimo, no, di nomi, che secondo me è parte integrante del film, certo. Come sono sempre i titoli di coda, no? Però in questo caso forse di più, perché ci parlano anche di qualcos'altro, insomma. Tra l'altro, ecco, un altro degli elementi forti di questo film che fa impressione veramente è che questa massa di persone è presa tra due milizie, da una parte la criminalità organizzata, dall'altra gli vari eserciti e forze armate, che l'aspetto più eclatante è in quella barriera di divisione tra il Messico e gli Stati Uniti, con i cecchini che tirano sulle persone, ma durante tutto il tragitto è un susseguirsi sia di bande legali o meno, insomma è una guerra, una vera e propria guerra. Sì, ma è una guerra in qualche maniera che è data da un semplice dato, nel senso, il dato è questo, che se c'è un business, voglio dire, di fondo, cioè se ci fosse la possibilità per tutti di viaggiare a pari condizioni, cioè non dico, voglio dire, non parlo soltanto la prima classe, la seconda classe, la macchina, il treno, ma proprio di potersi muovere, non ci sarebbe tutto un sistema che impedisce, e che quindi in qualche maniera per qualcuno sarà redditizio, che impedisce questi spostamenti. Cioè se le persone si potessero muovere normalmente, non ci sarebbero, certo, appunto le bande di persone che se ne approfittano, i governi non dovrebbero in qualche maniera fare quello che fanno, ovviamente spendendo denaro, per cui se ci fosse la libertà, voglio dire, in tutti i posti del mondo di muoversi, non ci sarebbe neanche quel sottomercato, no, di criminalità, sì, o di situazioni anche governative, che sicuramente forse a qualcuno voglio dire fanno anche comodo, e naturalmente chi ci rimette è chi invece vuole semplicemente spostarsi da un posto all'altro, ma anche semplicemente transitare, insomma. Sì. E se ci fosse appunto la possibilità per tutti di fare quello che noi banalmente facciamo, cioè certo, prendere un aereo, un treno, una macchina e andare dove vogliamo. Mm-hmm. Da oggi nelle sale La Gabbia Dorata, due copie anche a Roma, se non sbaglio. Sì, dicevi, sia al sì, Mignon che al Sacher. Alberto, io ti ringrazio, un in bocca al lupo per questo, grazie, questo gran bel bisogno. Film, e ci sentiamo magari per le prossime novità. Ok, grazie a tutti, ciao Alberto, buon pomeriggio. Ciao. Grazie, arrivederci. Alberto Fassina di Partenos Distribuzione per l'uscita della Gabbia Dorata, il film sui migranti dal Centro America agli Stati Uniti, da oggi nelle sale. Alessandro Falco, regista del film, del documentario La strada di Raphael. Alessandro, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao. Ciao. Ciao, buon pomeriggio. Era un po' che ti inseguivo e sei di nuovo sparito, un attimo. Ecco, ti abbiamo recuperato, Alessandro, ti dicevo benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Allora, è stato presentato in più festival, ha ottenuto anche un importante riconoscimento a Locarno. Sì. Dici un po' di questa bella notizia per quanto riguarda quel festival. Sì, beh, un cortometraggio che sta andando, ovviamente, come dicevi tu poco fa, sta andando bene all'interno di festival. Non è la cosa più importante, la cosa dei festival, perché comunque certo, ci sono molte altre manifestazioni che valorizzano il prodotto e danno la possibilità sia ai ragazzi che hanno partecipato al cortometraggio di mostrarsi dinanzi alle altre persone, sia alle persone stesse di interagire, appunto, e quindi di rapportarsi al lavoro stesso. Il premio, ovviamente, di Locarno, come anche altri premi che ha ricevuto il cortometraggio in ambito nazionale ed internazionale, mi inorgoglisce personalmente, però non è la cosa più importante, diciamo. Qual è la storia che racconti in questo corto, Alessandro? Diciamo che il corto è nato da situazioni che abbiamo pensato, come di consueto, diciamo, succede nelle sceneggiature, diciamo così, tra virgolette, classiche, prima delle riprese. Le stesse situazioni però poi si sono lasciate, diciamo, condizionare quasi totalmente da ciò che stava succedendo realmente, diciamo, ciò che stava succedendo alle persone che abbiamo filmato. Quindi narra la storia di due bambini amici, Raffaele e Adama, che sono in procinto di partecipare ad una manifestazione musicale, e parallelamente c'è la loro vita di strada, e parallelamente anche c'è ciò che stava succedendo a loro, cioè una situazione drammatica che li vedeva, diciamo, quasi in procinto di perdere una casa, di perdere la loro abitazione per uno sfratto forzato che c'è stato nell'area nord di Napoli nel periodo in cui stavamo girando appunto il cortometraggio. E quindi diciamo la finzione si è mischiata al documentario, nel senso che la messa in scena di determinate situazioni che avevamo pensato in precedenza ci hanno dato la possibilità di far nascere, di innescare determinate situazioni reali, quindi determinate azioni e reazioni dei personaggi, che erano poi conseguenza di ciò che loro stavano vivendo in quel periodo. Il tutto, dicevi, come era nato per quanto riguarda proprio l'idea di realizzare questo lavoro? L'idea, beh, è nata quando di tanto in tanto, io ho studiato cinematografia in Spagna, sì, quindi di tanto in tanto tornavo, e ci tengo a precisare anche che una parte della produzione è stata anche spagnola, di Barcellona. Di tanto in tanto tornavo a Napoli, ovviamente per visitare casa, per tornare nel mio paese, e vedevo dal mio balcone Raffaele, questo bambino che camminava velocemente da una strada all'altra. Poi l'ho un po' seguito, diciamo, nei giorni, nei mesi a seguire, e mi ha intrigato molto anche se non sapevo niente di lui, mi ha intrigato molto il fatto di vederlo che camminare in maniera agitata da una strada all'altra. Poi questo è stato il punto di partenza. Altre idee c'erano di fondo che si sono ovviamente, come dicevo prima, che sono state condizionate moltissimo, sì, da ciò che Raphael era realmente e da ciò che stava vivendo con la sua famiglia. Senti, che realtà rappresenta quella vissuta da Raphael e quanto è diffusa, quanto è espansa in una città come Napoli? Questa seconda domanda è ciò che mi preme molto già da tempo. Il fatto che io mi sia interessato di Raphael e il fatto che stiamo continuando a lavorare insieme, nel senso che lui sta facendo delle attività con me o da solo di cinematografia, diciamo, è una cosa che ci rende molto, molto felici. Però ci sono moltissime altre situazioni che per sfortuna o per incapacità di altri organi non riescono a mostrarsi, diciamo, in maniera diversa da quella che è quella più conosciuta, e ovviamente è molto molto diffuso. E la situazione che abbiamo trovato dinanzi è stata una situazione realmente drammatica. Ora non mi va ovviamente di dire tutto ciò che abbiamo trovato in casa di Raphael o in alcune altre case circostanti limitrofe, però comunque era una situazione molto difficile. Diciamo, la capacità del gruppo con cui ho lavorato è stata quella di rendere, comunque di costruire qualcosa partendo un po' tra virgolette dalle macerie, da ciò che di brutto c'era in determinate situazioni, dare voce, anche se spesso non parlavano, dare voce a queste persone che volevano ovviamente mostrare il loro disagio. Senti, ecco, tu hai avuto modo di vedere, esistono strutture o persone che si auto-organizzano o comunque che si occupano di queste situazioni limite? Situazioni sì, ce ne sono, però è ovvio che quando è una situazione lavorativa e dipende, non parlo del cinematografico, parlo, sì, di situazioni, sì, proprio sociali che si occupano di determinate cose e sono situazioni lavorative, dipendono ovviamente da determinati fondi per poter organizzare certi lavori, sì. Quindi è ovvio che se da un lato diventa tutto un po' poco umano, perché diventa tutto diventano tutti dei numeri, no? Delle persone che si trattano sono dei numeri, sono parte, diciamo, di un tutto che è un progetto. È ovvio che dipende da fondi che, nel caso in cui non ci sono o nel caso in cui sono stati ridotti, è ovvio che creano molti molti problemi. Altre situazioni ci sono, ad esempio c'è stato un personaggio all'interno del cortometraggio, Mauro, che lavora costantemente in maniera gratuita, lavora con ragazzi di strada, lo stiamo facendo tuttora noi fin quando c'è possibile di lavorare con ragazzi di strada, però è ovvio che è molto molto complicato tutto. Alessandro, per saperne di più sul tuo lavoro ci dai dei riferimenti internet? Innanzitutto vi dico che, per il fatto, ricollegandomi un po' a quello che si diceva prima, il fatto che i festival sì sono importantissimi per il regista e per il film stesso, ma non sono la cosa più importante. Ci sono altre manifestazioni come quella che è stata organizzata dal Ministero dei Beni Culturali, dal CNR, dal Centro di Cinematografia, appunto Centro Sperimentale di Cinematografia, e si chiama Cinema di Periferie. È un progetto, una manifestazione che vede diversi titoli come Sacro Gra, Terra Matta, Fratelli d'Italia e appunto La Strada di Raphael, e da novembre ad aprile 2014 in alcuni teatri, sale cinematografiche di Roma. Quindi ancora non è stata sponsorizzata, penso, la cosa, però comunque si potrà vedere anche a Roma. Bene, ti chiedevo, ecco, un riferimento internet, se c'è, se esiste, se lo vuoi dare. Vabbè, il corto attualmente sta girando per festival, quindi ancora non è libero. Va bene. Quindi per questo dicevo il fatto del della manifestazione a sì, Roma. Sì. Va bene, allora ci sentiamo prossimamente. Altrimenti ci si può diciamo mettere in contatto con Unisono Produzioni, che è l'associazione casa di produzione che ha sposato il progetto La Strada di Raffaele e sta sposando anche il prossimo progetto a cui stiamo lavorando, quindi Unisono Produzioni della provincia di Napoli. Ok, un abbraccio. Grazie, ciao Alessandro. Ciao. Alessandro Falco, regista del cortometraggio La strada di Raffaele. Allora, abbiamo provato a ristabilire un contatto con Leonardo Ferrari Carissimi per il suo film Mister America. Allora, ti stavo chiedendo qualche informazione sulla di massima sulla trama del film. Ci puoi dire qualcosa in più, Leonardo? Sì, no, dicevo solamente che era una storia legata come parentela a Valerie Solanas, che è la ragazza femminista, artista, anche scrittrice, che nel 68 ha sparato a Warhol e che l'ha preso, però il proiettile gli ha passato una spalla da una parte all'altra e ha preso una tela invece di ucciderlo. Tra l'altro Warhol si è venduto quella tela per $50,000. No, quindi no, è una storia, diciamo, in realtà triste, è un film drammatico con un risvolto thriller, con un grande colpo di scena, perché purtroppo le persone che hanno conosciuto Warhol non hanno avuto una vita facile. Sì. Senti, da quali presupposti sei partito per fare questo film? Cosa ti interessava raccontare? Guarda, io ho visto una mostra di pop art latinoamericana al Museo Malba di Buenos Aires, dove in pratica venivano riportate nella brochure della mostra tutte queste lettere degli artisti che avevano conosciuto e collaborato con Warhol, che poi erano stati da lui abbandonati e quindi erano cose, diciamo, in qualche modo abbastanza strazianti, struggenti, e questo mi ha fatto pensare. Quindi un po' dal lato oscuro di Andy Warhol. Sì, il lato oscuro, Dark Side. The Dark Side. Senti, poi per la realizzazione come ti sei mosso? Quali sono stati i passaggi? Ma ho presentato la sceneggiatura a varie case di produzione, poi dopo una casa di produzione ha deciso di realizzare. Insomma, è stato un delirio, perché i film indipendenti sono il delirio semplice e puro. Eh sì, da quello che ho capito, integralmente indipendente. Infatti ti chiedevo anche in quante copie esce adesso, oggi giovedì. Allora, siccome il film è legato ad una personale di Marco Tamburo, con 10 opere ispirate ai 10 fotogrammi più rappresentativi del film, sì. L'uscita è scaglionata, cioè oggi esce in 5 copie, è già uscito in un paio di copie dal 17 ottobre, ne usciranno altre 5, insomma per un totale di una ventina di copie. È chiaro che questo è il periodo di Checco Zalone, per cui noi proprio usciamo così, ma rientriamo. Senti, Leonardo, per saperne di più sul film e più in generale sulla tua attività, dove si può cercare in rete? Allora, potete tutti seguire il Facebook di Mister America della Velvet Movie, oppure il CK Teatro, che è la mia compagnia teatrale, perché io sono un teatro che fortunatamente è la cosa che più di tutti apprezzo e apprezzano, che è il Teatro dell'Orologio, che sta al centro di Roma, insomma, e lì io lavoro da ormai 10 anni, insomma. Infatti avevo visto che alla sceneggiatura c'era anche la firma di Morgan, ho detto qua c'entra pure il teatro in qualche modo. Esatto. Senti, è dal 2008 che ci abbiamo io e Morgan, insomma. Eh sì. Senti, Leonardo, io ti auguro un in bocca al lupo, ci risentiamo prossimamente magari per saperne qualcosa in più su come sta andando. Dai, va benissimo. Un abbraccio. Grazie tanto, un abbraccio. Ciao. Leonardo Ferrari Carissimi, regista di Mister America, in uscita oggi nelle sale, giovedì 7 novembre, e con lui chiudiamo la l'appuntamento settimanale con Visionari, il cinema su Radio Onda Rossa, ogni giovedì dalle 14 alle 15. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info, poi c'è la pagina sul sito internet della radio alla voce trasmissioni Visionari e poi la pagina Facebook. Baci, abbracci, buon proseguimento.